Va bene, riprendi Claudio pure. Ci farà grande. E lo so già. Anche se ho un piccolo appartamentini, ma per me non va bene. Ho troppa roba, Gianni, non so dove metterla. Purtroppo, niente, io la prossima posto che troverò, come dico io, metto un traliccio di 10-12 metri, non me ne frega niente. Poi, tu non ricordi Corrado, quello che ci va a grattarci? Certo che lo ricordo. Io sono andato una volta all'improvviso a casa sua e c'era anche un'altra CMI che ero insieme, insomma, non me l'aspettavo. Ho detto scusate ma non sapevo che... Anche a me è successo, eh? Sì, per dire, della zona dei pompieri. Prima sovramodulati, che stava parlando Claudio da Muros e niente, adesso lo richiamiamo. Avanti Claudio. Grazie. Carlo, se tu vedi l'antenna mia ti metti a ridere. Allora, io prima ce l'ho attaccata a un muretto, poi l'ho dovuto togliere, a mettere dove c'è il cortile, poi l'ho dovuta di nuovo togliere perché qualche voce che le onde facevano male, ma che si rabbiglia a luce, vabbè comunque. Allora non la voglio messeggiare perché se mi dice a voi sono antipatico, no, io sono molto la prima poi. E allora per evitare, l'ho spostata ancora fuori dal mio recinto, diciamo. Ho fatto un bel plinto in terra, in calcestruzzo, due quintali e mezzo di calcestruzzo, il palo affogato dentro col ferro, eccetera, eccetera, 6 metri di palo e l'antenna sopra, boh, c'è un'antenna di quelle proprio da 13 metri, comunque. Queste sono le mie condizioni di lavoro, ecco perché dico, sono più piccolino, sono nella condizione, diciamo, non è che posso pretendere molto, tutto qua Carlo. Sì, va bene Tony, poi vabbè, se tu sei in campagna ti puoi anche sbizzarrire volendo, però io ripeto, se va bene così, io lascerei tutto così com'è, capito? Perché per i collegamenti così per Sassari e paesi intorno a Sassari, Sorso, Porto Torres, Alghero, tanto qui sono quelli i paesi, va bene, non è che c'è bisogno di grandi antenne, salvo che tu voglia fare di X e viaggiare lungo. Io da quando ho messo questa antenna non mi posso lamentare perché in banda laterale quando vado arrivo molto molto lontano con o senza propagazione, aumento un po' l'uscita e viaggio, viaggio, faccio un sacco di collegamenti. E purtroppo io Carlo ho intenzione di fare delle cose ma non le posso fare perché il mio padroncino di qua sono a costa a mettere le mani addosso, quindi ho una veranda che è un peggio di un colabrodo, da gennaio sì che me la faceva e tante altre cose, sono andato in fine, ma detto se non ti va bene così cerchi casa, certo che me la cerco, però sto facendo soffrire, perché sono quel tipo che a me se mi proprio pezzi la coda sono cavoli suoi, sono un bel maro e sto imparando a conoscermi, peggio per lui, non ho voluto lui questo mio carattere, quando era con la sorella e guarda in 11 anni, 12 anni ero proprio guarda un amore proprio perfetto, tant'è vero che mi ha detto anche queste testuali parole, è venuto un compagno ha detto, e ha detto Maria c'è il ritorno dove di prima a casa sua a fianco e io ho detto purtroppo c'ho i cani, io i cani piccolini se erano prevenuti ce ne fatto perché era una verissima causa, una del papà attaccata alla villa sua. E per la terra non c'era problema, ma per i cani lì non le vuole, allora io sono i cani, io ormai sono affezionato, ce l'ho già 3 anni, ce l'ho da piccolino, da 2 mesi, e per me è tutto, Carlo, sono affezionato, mi dispiace, troverò un'altra casa, come Dio comanda. Ecco perché non posso fare oltre quello che ho fatto, capito? Quindi non mi voglio sbilanciare perché io mi conosco bene, poi anche già mi conosci che tipo sono, io voglio essere in pace con tutti, tranquillo, sereno e basta, e me ne voglio andare da qua, basta, voglio cercare una casa come Dio comanda, tutto qua. Bene Meda, esci che vediamo se c'è ancora Mirko oppure se sta degustando il minestrone. Di Mirko, sì, perfetto, allora vuol dire che esce bene. Vuol dire che l'autocostruzione l'hai fatta bene, Mirko. Sì, rilanciamo adesso Claudio Muros. Carlo, Non ho capito perché sul mio telefono quando scrivo una cosa me ne dà un'altra, anziché ore mi ha scritto ire. Una volta ho scritto mia sorella, non so cosa stavo dicendo, ho scritto e sto stirando la roba, e mi chiama al telefono e mi fa, ma amico cosa hai scritto? Cosa ho scritto? Che stai stirando la gonna, sto stirando la gonna. Ma è una casa, io ho scritto che stavo stirando la roba. E penso, guardato, a me il signore fa schifo veramente, non so come tu dirlo. Me lo devi insegnare come si stira una donna, eh. Io la stiro diversamente. Comunque, orizzontale, verticale, portate che è femmina a voi. Ma stamattina macchina la stiri? No, poverina. Quanto siete morti però, dai, sotto con la macchina, io, ma quando vai Gianni? Non si fa così. Paolo, avanti! Sto lavora! Mamma mia! Ogni tanto qualche battutina ce la facciamo tra noi, dai, giusto per fare due risatine, già va bene Claudio. Vai Mirko, da Alghero. Saturo. Mirko, io sono il più poveraccio, ma devi sentire con 7 qua. Io sono il più messo male come zona e come antenna, tutto qua. Copiato Mirko. E già va bene, quello che mi ascolti, a me il segnale non è che mi interessa più di tanto. Anzi, è già qualcosa che da quando ho sfruttato l'ultima volta l'antenna riesco a tirare fuori Alghero, perché io proprio Alghero negativo è dove era prima l'antenna. Quindi anche produttore della Pio Pio. Oggi invece riesco a sentire produttore 6789, cavolo. Già va bene. Ok, Gianni, riprenditela. Ehi, Mirko, dai, sei l'unico che non mi dà il segnale. Guarda, metti l'occhio nello smitter per vedere come ti arrivo, grazie. Poi già va bene, dai, va bene per la zona di Alghero. Puglia. C'è nel Filippucci. Sai che ho visto l'antenna di Mobulus. L'antenna di Mobulus? Perché messa se l'ha? È la Tenino che c'è fuori la pietra. Ah! Sai, quando io cammino le strade guardo sempre in alto. Non l'ha mai data, c'è anche di diffuso. No, negativo. Oh, stamattina mi ho fatto pigliare un colpo la massa, te ne pare già, eh. Se dovessi adesso una parata, no, non ci credo. L'ho fatto ripensare e mi fai molto del lavoro. No, vabbè, comunque sarei venuto, mi sono un'altra vita, eccetera, eccetera, capito? Io ripeto, sono oltre 15 anni che lo faccio quel lavoro lì, e poi quella lì facevo volta a morte di papa che era soltanto a forza maggiore. Tra l'altro il mio sono elettrico idrico, ma comunque le altre guarda con la bugitore, con la molla sotto te ne faccio 2 secondi, quindi non è un problema. Però stamattina sono rimasto così e dico, non vi credo, no, se farei andare da Gianni glielo faccio. Allora, guarda che fosse la bussola dura. Tanto sei cattivo, ragazzi. Avanti, Carlo. Eccoci qua, sì. Mirko a me arriva benissimo, radio 5, segnale fisso 8, e quindi qua mi arriva più che bene, positivo. Altrettanto posso dire di Tonino, di Gianni non ne parliamo perché arriva troppo forte. E niente, Claudio lo stesso, 9.30 pieno, radio super 5, già vi ascolto bene tutti. Claudio, ripetimi quel sito che così me lo segno, perché prima non avevo la penna e me lo sono già dimenticato. Claudio, buon corretti, allora salutami a Capri 2, e tu che non buon carico quando lo farai. E anche il tuo parallelo, salutami. Meneveda, avanti Gianni. Ehi, allora, io stavo guardando se c'è un RFG in chiuso, perché a Mirko di Alghero lo sento con Santiago 4.5 con picchi a 5. Lo sento così basso, non capisco perché. Ma c'è l'RFG in chiuso? No, era aperto. sinistra, a me arriva a 7 Mirko. E magari tu sei, diciamo, in linea d'aria, sei più vicino, capito? Più vicino, tu c'è un mainaccio già, io sono coperto. Non so cosa dirti. Così è e così ti sto dicendo. Va bene, saluto Claudio, riprendo io, saluto Claudio che fa quelle T. Niente, Claudio, sono su Cluster DX e quindi ci sono entrato. Ho visto com'è, sì. Poi avrò modo di registrarmi, se non sei ancora membro mi dice clicca qui e registrati. Adesso mi salvo questa pagina e così quando ho modo, capito, ci entro e faccio la registrazione. Grazie e buonasera, riprendi Mirko. Va bene Mirko, noi siamo qua ancora, sì, è subito ora di cena, facciamo le ultime quattro chiacchiere anche noi, andiamo a cenare, riprendi Tonino. Ok, allora buona mangiucchiata di minestrone Mirko, dai, anche io qualche altro passaggio, anch'io mi sposto. Andrà bene, ok, ciao di nuovo Claudio, avanti Gianni. Ciao Torino, ciao, sto facendo quelle tiracchie, saluto tutti cordialmente, buona serata, buon continuo questo. Ciao a tutti, ciao Mirko, ciao anche Carlo e sfidati amici, dai, non voglio dimenticare nessuno. Ciao a tutti. Scappa, ciao Gianni di nuovo, salutone, ci sentiamo, a presto. Ok, Carlo vai. Sì, Gianni evidentemente si sta organizzando con la cena. No, io la cena stasera ce l'abbiamo già organizzata e quindi niente. Adesso aspetto gli altri, quando va bene ceniamo. Stanotte niente, dopo cena solitamente me ne vado in salone, mi guardo qualche film o qualche documentario interessante. Ieri mi ho visto un programma che c'era su Sky e parlava di questo che hanno arrestato delle latitante super ricercato, adesso ne stanno tutti parlando e quindi ho detto sentiamo qualche cosa di novità e vediamo un po', ma stanotte penso che mi sparo un film e poi intorno alle 11 e mezza, mezzanotte me ne vado a nanna. In questi giorni riposo, domani mattina poi accendo, io solitamente la mattina accendo, faccio una chiamata sul 10 ma non c'è mai nessuno e allora me ne vado sul 27555 in banda laterale, mi faccio qualche chiamata. Stamattina ho parlato col Lago d'Orta, con questo IS Alfa 200 Massimiliano, mi arrivava qua Santiago 8 Radio 4, lo sentivo benissimo. I giorni scorsi ho parlato con Cracovia in Polonia, con questo Adriano, mi ha detto che c'è qualcosa su YouTube, 161 AZ77 Adriano, e ho visto che fa un sacco di DX questo. Quindi la mattina si apre un po' di propagazione, arrivi nel nord Europa, su quelle parti là, capito? Però poi ci sono una mezz'oretta e non più di tanto, anche io poi chiudo perché c'ho da fare. Capito, poi riprendi a fare le cose, anche perché stavo seguendo i lavori, stamattina ci hanno cambiato le soglie delle finestre qua, che stiamo andando avanti con il bonus 110, capito, e stamattina hanno rifinito tutta la facciata in fino, hanno fatto e ci hanno cambiato le soglie alle finestre e tra un paio di settimane hanno detto che ci cambiano gli infissi. Speriamo che non stia facendo troppo freddo, capito? E poi vediamo un po' cosa ne esce fuori. Riprendi Tony. Niente, io ho visto, sì, molto Canale 20 invece, che c'è quei tanti film, ho visto, due o tre giorni fa, due film, uno dietro l'altro, ma così belli, di terrorismo, ma guarda. Niente, volevo riprenderti sul coso di quel mafioso che era arrestato. Io ne ho anche la vergogna di sentirlo che la televisione ne parla sempre. Ma non si vergognano, questo qua ha messo un ragazzo di 12 anni nell'acido, tutto quello che ha fatto. Uno è un poveraccio che ha sempre lavorato, non ne parla nessuno. Questo perché era un mosso che ha ammazzato parecchie persone, che vuole preso e piccato, ne parlano giorni e giorni. Ma non ce ne facciamo la vergogna. Ma che cavolo di stampa abbiamo? No, guarda, io sono deluso, no, mi dispiace. Io quando c'è il parlo di nuovo è cambio canale, ma frega niente. Ti ho capito e condivido il tuo stato d'animo, perché quello era, è un delinquente, capito, è un assassino, è uno che insomma l'ha fatta franca per 30 anni, più che altro era la curiosità per vedere se avevano scoperto qualcosa di importante, documenti trovati, perché pare che avesse con sé l'agenda di Borsellino quando hanno fatto l'attentato, capito, ero curioso di sapere se trovavano qualcosa, perché hanno scoperto dove abitava, oggi dice che hanno scoperto un altro covo dove era prima e vediamo un po' cosa ne esce fuori, giusto per vedere se c'è qualche curiosità. Poi per me quello lo possono anche bruciare domani, anzi se mi chiamano a dargli fuoco lo faccio volentieri io a dargli fuoco, non ci sono problemi. Vai Tony. Guarda, io ne sento tante, ne ho sentito addirittura che non è che ci ha fatto prendere lui. Io ho saputo che invece hanno fatto con la mafia lo scambio, perché lui era già malato, e che c'ha quel male al colo, eccetera, e quindi diciamo ne fai uscire uno che vogliamo noi e ti diamo questo qua. Ecco, questo qua è uno scambio. Cosa hanno preso? Hanno lavorato quell'altra Meloni che va là a ringraziarli perché l'hanno arrestato? Non è che si rabbiglia nel luce, no, per carità, se bufate poco mi piace. Già che ha dato anche la Meloni a Zelensky l'appuntamento, lo dico quando, ma vengo, verrò da voi, anche signore con una bomba puletta, ma tra puletta. E che cavolo. Già io sono contrario per le armi, perché no, tu vuoi che continuiamo la guerra, cioè che continua la guerra. E questo Zelensky era un buffone, perché era come grido, un buffone, un pagliaccio, l'hanno votato il presidente, cioè hanno molte città distrutte, molti, migliaia contro sua. Non si può mettere contro la Russia, perché Putin ci sta veramente incavolando, se ci incavola ci piacciono anche noi. Chi dovrebbe quel canutami? Figlia, chi c'è il bottone, arrangitevi. Cioè, chi c'è un pellegrino vuole armi, ma come fai tu a combattere con le armi degli altri? Ma non ti fa una vergogna? Ma vai, miserabile che non è altro. Ma io se vedo il disco lo piglio a calci, lo piglio a me. Stiamo scherzando. A me queste cose mi danno anche fatica, ecco perché molte volte me ne vado. Canale 20, non voglio neanche sentire il telegiornale. Ma non sento queste pensieri e mi dà fastidio, Carlo. Ho capito, sì, no, sono d'accordo con te, perché anch'io sono contro la guerra. Il problema è che gli hanno preso prima la Crimea, poi il Donbass, e quindi alla fine Putin non è che si ferma lì, inizia da una, poi due, poi alla fine tre, e quindi loro stanno cercando di difendersi, però non ti puoi mettere contro. Loro dovevano fare un accordo di pace, a dire bene, ti hai preso già la Crimea, ti prendi il Donbass, punto e basta, ritirati, però così stanno distruggendo città, stanno ammazzando un sacco di persone, in effetti la fornitura di armi da parte dell'Europa, degli Stati Uniti non fa altro che aggravare la situazione, anche perché così poi alla fine non lo so se ci riescono a riprenderlo il Donbass, capito? La Crimea ormai ce l'hanno i russi e non la mollano, hanno invaso il territorio, però chi ha provocato tutta questa cosa è la NATO che spingeva sempre di più verso quelle zone, e quindi Putin cosa ha fatto? Si è preoccupato e si è inventato questa guerra qua, capito? A dire io gli metto l'auto là e lui qua in Ucraina non ci arriva, anche perché la Crimea è una zona strategica, perché controlla tutto il Mar Nero, quella zona là, e il Donbass idem, confina con la Crimea, quelle zone lì, e quindi lui vuole tirare un solco netto lì e vuole controllare tutta quell'area lì, quell'area geografica, e non l'ha mai detto chiaramente, l'ha invasa, perché c'erano delle componenti, diciamo, etniche russe abbastanza cospicue in quella zona lì, e quindi lui, col pretesto di referendum fatti anche così un pochettino male, capito, e ha cercato di entrare, però ha trovato adesso l'ostacolo del resto dell'Ucraina, capito? Però a questo punto, hai detto bene tu, non può mettersi contro una superpotenza, contro Putin, perché non se ne esce più. Fai prima cedere quelle cose, però chiarisci a dire ti prendi quello, punto e basta, tiriamo il confine nuovo e non ti azzardare più a invaderci, perché comunque poi l'Ucraina potrà entrare anche nella comunità europea e lì c'è di mezzo la NATO, tira i confini e buonanotte, e dovrebbe finire lì, capito? Il problema è che non trovano un accordo. Vai Tony. Cazzo, sì, sono già 11 mesi, guarda, un altro mese però non hanno rischio questa guerra qua. Cioè, ma io dico, doveva finire dall'inizio, non aspettare che... Se tu conosci bene, in Russia non è successo niente, tutto nell'Ucraina, tutto. E quanti palazzi vedo enormi, sidurati, buchi per terra, delle bombe, tutto. No, guarda, perché sta. Non lo so, poi le centrali, tutto, le stavano facendo morire anche di freddo, è tutta la tattica della Russia, perché Putin non gliela frega nulla, è un tipo proprio che non gliene frega niente, l'ha dimostrato in mille maniere. Cosa va a dire, noi abbiamo ammazzato migliaia di russi, ma per me cosa tedeschi siete tanto incicazzati, e poi va a dire i russi mi hanno attaccato la centrale. Io ho sentito invece c'è un'altra questione, che invece sono loro stessi che hanno distrutto mezza centrale e poi compare a Putin. Guarda un po' cosa sento io. Comunque, ohia, questo Zelensky l'ho sempre odiato. Allora dico una cosa, questa guerra qua si sapeva già oltre 15 anni fa, perché io conosco l'Ucraina, che era, io ci vado, cioè tutt'oggi ci parliamo perché era la padanza della buona di mamma, conosco anche la figlia, e io so da lì stesso che questa questione è da molto, che Putin voleva occupare tutto quanto con il suo, dice, è unica terra ed è, siamo tutti russi, quindi non c'è paragone. Quindi lui ha scatenato questo casino e alla fine era già preventivato che succedeva questo, perché Natalia me l'ha detto. Si sapeva già lì, infatti si è venuta qua in Italia, c'è molti anni, perché si sapeva che un giorno o l'altro scoppiava questo casino. E mi spiace per i morti, voleva dire molti civili, ma è voluto tutto, è venuto il casino, si è messo contro tutti che non ha giù preso. E come la stessa cosa che... Oggi posso dire, 10 bambini si mettono contro 100 uomini, cosa fanno? Nulla, zero, perché i 100 uomini li calpestano, li schiacciano, poi lui non c'ha neanche armi, a questi li vede come ce l'ha Putin, perché giustamente chiede sempre armi, sempre sofisticate, più grosse, l'America lo sappiamo, corre solo dove c'è da guadagnare, perché l'Ucraina c'ha molta roba, come ha salvato, diciamo, lo Kuwait tempo fa, l'America, e c'è il petrolio, quindi dove c'è da sficcare loro sficca, loro vanno sempre per quello, ahi c'è una guerra, così noi sficchiamo, incassiamo, guarda che se vanno nel Bangladesh non ci vanno perché non c'è nulla, hai capito Carlo? Purtroppo è così, l'America sono pezzi d'animale, chiacchierone, ma non è ancora asciuttato. Dice che la si arrendi da buono sala. Ma quando si parla con Carlo, dai, che la persona abbastanza serena fa anche piacere, dai. Vabbè, sì, lo so, dai, stavo ascoltando. Non avevo chiuso il tutto manco io, dai. E comunque io ho detto cose giuste, non ho detto le cose sbagliate, io giuste. Per me no, per me è giusto. E Carlo ha detto anche lui la pensa come me. Non è che ho detto fesserie, Gianni. Io non ho detto questo, assolutamente. Vabbè, dai, vi saluto. Era solo una battuta che volevo farti. Io sì, ciao. Avanti Carlo. Ciao Giannino, mi sa che ci siamo dimenticati di Mirko, no? Perché non so se aveva chiuso, che è andato a mangiarsi il minestrone o meno. Comunque, se sei in ascolto Mirko, ti salutiamo, perché anche noi tra pochi minuti chiudiamo tutto. Lo so Mirko, purtroppo sono molto prepotenti i russi, e mostrano i muscoli, ce li hanno e quindi devono per forza, insomma, farli vedere, purtroppo è così. Bene Mera, si è fatto tardi e quindi anche io adesso vado a fare QRT, un po' di carica batterie, perché è ora. Ci sentiamo sicuramente nei prossimi giorni. Grazie Mirko del QSO, mi ha fatto piacere sentirti. Alghero, non me lo salutare che ci andrò tra un po' di giorni e quindi ci sentiremo sicuramente. Riprendi Tonino e poi ascolto il finale e devo andare a cena. Ok, anche d'accordo, anche io per me chiudo, perché si inizia tutte le giornate, però volevo guardare le cose che mi interessano, adesso per il canale. Ok, ciao Mirko, salutone, buon mangiato il minestrone, sta ben bene. Ciao Carlo, piacere anche mio, se avete sentito, grazie per la questione e ci sentiamo alle prossime. State bene, salutone anche i eventuali ascoltoni. Cuore tango da parte mia, ciao ciao a tutti. Yeah, ciao Tonino, alle prossimine, ci sentiamo sicuramente domani. Va bene, di nuovo saluto a Mirko, ciao ciao, buonanotte a tutti e buona cena. Ciao ciao. Buonanotte.